Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Dall'NBA all'Eurolega, dalla Premier League al calcio femminile italiano. Oggi vogliamo percorrere tutti i sentieri che portano a Olimpia, la città dello sport. Dai levigati parquet americani ai campi di calcio più ammirati al mondo, fino ai campetti che, ahi noi, ancora caratterizzano il nostro campionato di calcio donne, ben lontano per qualità e organizzazione dai movimenti calcistici in rosa più sviluppati a livello internazionale. Livelli organizzativi addirittura incomparabili, quindi, a volte, cui si intrecciano storie di atlete e atleti, campioni e comprimari, che questi sistemi illuminano e da cui ricevono luce. Sono questi i percorsi che indaghiamo oggi appunto a Olimpia, e allora andiamo subito su uno dei prati più ammirati del pianeta, Wembley, per la finale di Coppa di Lega inglese tra Manchester United e Southampton. E allora Redmond può gestire verso Ward-Prowse, cross teso, Gabbiadini, gabbia gol, fa male allo United e questo può essere un gol fondamentale per il Southampton. Chiama lo schema Ward-Prowse, stavolta batte lui, tagliato dall'altra parte, Pogba sporca il pallone, poi Davis lo rimette dentro, Gabbiadini, ancora lui, ancora Gabbia gol, esulta scivolando sotto i suoi tifosi, è 2-2, meritatissimo! Bella e sfortunata l'impresa di Manolo Gabbiadini, l'attaccante ex Napoli volato a Southampton appunto durante il mercato invernale, protagonista di una splendida doppietta nella finale persa dai suoi Saints contro il Manchester United di Mourinho e Ibrahimovic. Bravo Manolo, che sta conquistando gli appassionati inglesi, ma bisogna ricordare che il pallone in casa Gabbiadini l'ha cominciato a calciare per prima la nostra ospite di oggi, vero Melania Gabbiadini? Benvenuta e grazie di essere ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Melania Gabbiadini, sorella di Manolo e a sua volta attaccante della nazionale femminile di calcio, 5 scudetti vinti con la maglia del Verona, inserita di recente nella Hall of Fame del calcio italiano. Allora Melania, sei stata tu appunto a indirizzare Manolo verso il calcio, giusto? Beh sì, perché comunque la differenza di età c'è, io sono più grande, lui l'ha sempre seguito, quindi ha sempre avuto un occhio di riguardo anche su di me, però credo che se io non ci fossi stata, comunque se non avessi giocato a calcio, lui l'avrebbe comunque avuto nel suo DNA. In famiglia com'è stata vissuta la vostra passione per il football? Siete stati incoraggiati? Sì, direttamente sì, i miei genitori ci hanno sempre seguito, entrambi ci seguono tuttora, però già da allora, insomma, poi tutta la famiglia giocava a calcio, quindi per noi è stato veramente semplice avvicinarsi a questo sport, e per loro è un grande orgoglio, ecco, avere due figli così che giocano a calcio a questi livelli. Senti, Manolo in Premier si è ambientato subito benissimo, eh? Ma guarda, lui anche quando era più piccolo ha sempre seguito il calcio inglese, era un calcio che gli piaceva già da allora, quindi per lui adesso essere là è un sogno che si è realizzato. Sta bene, è sereno, l'importante, la cosa più importante per lui era ritrovare un po' la serenità di se stesso, ecco. E poi l'ambiente lo sta aiutando molto, si sta inserendo bene e niente, quindi spero che continui così come ha fatto fino adesso. Tutt'altro clima si respira ai noi sui campi della nostra Serie A femminile, direi poco pubblico, scarso interesse dei media, anche se qualcosa, seppur lentamente, sembra si stia muovendo. Sicuramente in quest'ultimo anno c'è stato un maggiore interesse con i nostri confronti, perché comunque stanno investendo anche sulla nostra crescita per far sì che arriviamo, se non al pari livello, ma comunque ci si avvicina anche agli altri paesi. Sicuramente fino adesso siamo stati un po' messi all'angolo, perché comunque l'interesse era minore, però comunque diciamo che in quest'ultimo anno, come ho detto, qualche cambiamento c'è ed siamo su una buona strada, ecco, dobbiamo continuare così e sicuramente poi i risultati arriveranno. Una crescita lenta ma costante, testimoniata anche dal tuo inserimento nella Hall of Fame del nostro calcio. No, ma questo sì, anzi, per me è un onore far parte di questo. E ti ripeto, in quest'ultimo anno si sta facendo davvero tanto, quindi la nostra speranza è quella che non ci fermano, ma che che si continui su questa strada. Senti, il primo gol in maglia azzurra te lo ricordi? Purtroppo un po' la memoria corta. No, beh, comunque guarda, io quello che ti posso dire in questo momento è che il primo gol che ho segnato con la nazionale è stata un'emozione grande, ma come lo è tuttora per l'ultimo che ho fatto, perché comunque quando giochi per una maglia azzurra giochi per una maglia importante che rappresenta il tuo paese ed è il massimo per noi calciatrici, quindi l'emozione non svanisce dal primo gol che ho fatto anni fa all'ultimo che ho fatto. Parliamo del nostro movimento femminile ora. All'estero, ammettiamolo, è tutta un'altra musica. Negli Stati Uniti, ad esempio, il soccer in rosa è popolarissimo e la nazionale è ai vertici del movimento mondiale. Ma diciamo che è sempre stato un calcio di livello per loro già da parecchi anni. E hanno sempre mantenuto questa linea e stanno anche facendo qualcosa di più, però insomma è sempre stato così negli Stati Uniti, questo non è una sorpresa per noi. In Germania poi la tua compagna in azzurro, Raffaella Manieri, ha sollevato negli anni scorsi il trofeo di campionessa di Germania insieme ai colleghi del Bayern Monaco maschile. Scena ancora impensabile nel nostro calcio. Beh, chiaro, adesso qui è una cosa improponibile perché probabilmente non ci si avvicina nemmeno a quello che fanno i nostri colleghi, quindi però sicuramente, come hai detto tu, vedere un'immagine di quel tipo vuol dire che insomma in Germania credono tanto nel movimento femminile, lo stanno dimostrando anche con i risultati. Nell'Europa mediterranea il calcio donne sembra fare più fatica. Senti, non è che noi latini abbiamo pregiudizi più radicati? No, probabilmente sarà così, però comunque anche la Spagna ha dato una crescita di livello sicuramente al calcio femminile. Hanno dei risultati ottimi in questi ultimi anni, hanno fatto davvero tanto e sono cresciuti quando noi invece siamo rimasti ancora un po' piatti. Ecco, ma quali sono le principali difficoltà che una volta in campo, ad esempio, voi giocatrici trovate contro le avversarie che arrivano da questi campionati più qualificati? Ma sicuramente il distacco che c'è a livello fisico, perché comunque le altre squadre hanno delle strutture molto più importanti di quelle che abbiamo noi in Italia, perché col club si fa un po' fatica ad avere tutto al meglio. Quindi fisicamente è quello che noi studiamo di più, perché poi tecnicamente e tatticamente siamo molto preparate. Ti chiedo ancora, Melania, quali possono essere le soluzioni, le strategie da seguire per fare effettivamente un ulteriore nuovo salto di qualità al movimento? Io credo che già il fatto che comunque delle società maschili prendono anche il femminile, questo sia tanto, perché basta pensare alla Fiorentina quest'anno che ha rilevato totalmente la squadra femminile e sta facendo davvero tanto in tutti gli aspetti, sia sul campo che soprattutto fuori. Oltre a questo bisogna credere che davvero si possa cambiare qualcosa, credere che anche qua possiamo dare tanto, anche se ovviamente le cose si fanno in due, quindi come noi pretendiamo di ricevere determinate cose, anche loro ovvio devono ricevere da noi, quindi questa sta un po' anche noi, ecco, riuscire a dare il meglio di noi in tutti i campi. Come immagini il calcio femminile italiano fra 5 anni? No, io spero che con questo percorso che si sta prendendo, sicuramente il calcio nostro sia molto più elevato di adesso e molto più seguito, soprattutto che l'investimento che si cerca tanto oggi ci sarà tra 5 anni. Quindi spero di vederlo molto molto alto, un livello molto alto, che si devono affrontare partite contro le campionesse in carica dell'Europa, del mondo, ci sia una partita quasi alla pari. Ecco, prima però ci sono obiettivi più immediati, già quest'estate in Olanda, giusto? Ma nell'immediato ovviamente c'è l'Europeo che noi aspettavamo tanto di qualificarci, l'abbiamo ottenuto e adesso sta a noi in questi mesi riuscire ad alzare un po' l'asticella per andare a competere davvero a pari livello con le altre squadre. Il lavoro che stiamo facendo c'è, è importante, lo stiamo facendo tutti quanti bene, sia noi ragazze che lo staff, e sicuramente se mettiamo quel qualcosa in più possiamo far bene. Allora, in bocca al lupo Melania Corradini, e grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie mille a voi. Ora una breve pausa, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta... Olimpia, miti e verità dello sport. Dal mondo del calcio femminile italiano, che ci ha appena descritto Melania Gabbiadini, bomber della nostra nazionale rosa e sorella maggiore di un altro attaccante d'eccezione, Manolo Gabbiadini, al mondo dorato dell'NBA. Sentieri impervi e poco noti quelli che stiamo percorrendo oggi a Olimpia, alla scoperta dei segreti dell'evento sportivo, della sua gestione e della sua organizzazione. E allora facciamo un salto triplo dagli spiracchiati campi della nostra Serie A calcistica femminile ai dorati parquet del basket d'oltreoceano. One dribble steps back, puts up a three, won't go, rebound tip taken by Spades, final seconds, it's over, it's over! Cleveland is a city of champions once again! The Cavaliers are NBA champions! Scene di pochi mesi fa con i Cleveland Cavaliers di LeBron James, campioni dell'NBA dopo 52 anni. Una vittoria frutto di un sistema che esalta lo show business, detesta le troppo lunghe dinastie vincenti, premia la competizione. Un modello che l'Europa dei canestri sta imitando attraverso l'Eurolega, vero e proprio campionato continentale. Ma tra i due sistemi rimangono ancora differenze profonde e sostanziali. Come ha spiegato a Olimpia Maurizio Gherardini, ex vicepresidente dei Toronto Raptors e responsabile degli affari internazionali degli Oklahoma City Thunders, prima demiurgo della Treviso dei canestri e ora general manager del Fenerbahce Istanbul, una delle corazzate europee dei canestri. Innanzitutto bisogna capire che siamo di fronte a modelli sportivi completamente diversi, no? Quindi una volta che si capisce questo, si capisce che si devono considerare anche altri valori, no? La priorità delle cose può essere diversa, no? Però sicuramente un conto è avere da una parte un modello che è un modello sostanzialmente commerciale, che deve produrre un business vincente, e dall'altra un modello che è basato sul dramma fra virgolette, o sulla bellezza della promozione, della retrocessione, di tutto quello che ne consegue, ma non è esattamente un modello basato sul business come business, sono due concetti completamente diversi. Da una parte c'è una lega chiusa, dall'altra c'è una piramide di livelli differenti, quindi per capire i due mondi bisogna capire i due modelli differenti. Ecco. La differenza più macroscopica, i budget innanzitutto, ma più in generale quantità e qualità delle strutture organizzative delle franchigie NBA e dei top club continentali. Entrambi i modelli hanno la necessità di sviluppare al proprio interno certe aree per poter essere modelli di successo. Più specificatamente, ogni modello, ogni struttura, chiamiamola, di un club, oggi come oggi, questo anche in Europa e soprattutto in Eurolega, deve avere il proprio responsabile marketing, il proprio responsabile ticketing, il proprio responsabile di media, quello di social media, quello delle relazioni con i tifosi. Insomma, sono tutte aree che si stanno creando e si stanno sviluppando e che naturalmente anche dall'altra parte dell'oceano vengono chiaramente seguite, sviluppate, vissute in maniera molto simile. Quello che cambia, ripeto, nel paragonare le due strutture, direi che sono le dimensioni, no? Sono dimensioni non paragonabili, cioè non so, per darle un'idea, il club medio americano di NBA può avere una struttura da, non so, da 130, 150, 170 persone che lavorano dentro questa società. in Europa quando un'organizzazione ha 20-25 persone è già un'organizzazione molto, molto strutturata. Ma la forza dell'NBA non è solo nei numeri, ma soprattutto nelle strategie, che hanno reso la palla a spicchi americana uno sport, anzi meglio un evento sempre più globale, spiega Gherardini. L'NBA è stata bravissima, cioè se noi pensiamo anche solo per un attimo a com'era vicina l'Europa, l'NBA, non so, dico 30 anni fa, e a com'è lontano oggi, ci si rende anche conto quanto l'NBA sia stata bravissima a diventare globale prima di tanti altri sport, prima di tanti altri sport businesses. Uh-huh. L'NBA è riuscita a creare modelli e idoli quasi in ogni paese, a esportare il proprio successo in tutte le nazioni. Ormai ogni paese ha quasi un giocatore nell'NBA o più di un giocatore nell'NBA. L'NBA è diventata in maniera incredibile un fenomeno globale che continua a fare ancora di più per cercare di diventare ancora più globale, perché non so, adesso siamo arrivati al punto che stanno sviluppando i concetti di creare accademie NBA per sviluppare i talenti lontano nelle aree che solitamente non hanno la possibilità di organizzare la preparazione dei giovani, come può essere l'Africa piuttosto che l'Australia, piuttosto che l'Asia, insomma. Però torna sempre al solito concetto: cercano di esportare ovunque il proprio marchio, il proprio business, il proprio successo, i propri campioni, e questo è un qualcosa che l'Europa può in un certo senso mutuare, può cercare di, se riesce a creare un marchio tra virgolette vincente come quello che pian piano si sta affermando come Eurolega, può essere un qualcosa che può aiutare a creare, in fondo l'Europa deve cercare di creare un primo livello di successo, chiamiamolo, come qualità di basket, e questo può essere l'Eurolega, che può portare ricchezza a tutto quello che è promozione del basket, tutto quello che ci sta sotto, insomma. Cura del dettaglio e consapevolezza del bene comune e del business comune sembrano essere le altre chiavi del successo dell'NBA. Credo che la forza dell'NBA è anche in alcuni, primo, nella cura del dettaglio, sicuramente incredibile, cioè le strutture sono strutture molto più grandi, come abbiamo detto, molto più numerose, ma anche che permettono una cura del dettaglio incredibile rispetto a quello che noi ci possiamo permettere in Europa. E l'altra cosa che mi ha fatto, quando ho iniziato a lavorare lì, che mi ha fatto capire immediatamente il segreto dell'NBA, è stato che mi sono ritrovato a esordire ai primi giorni di lavoro nel mio nuovo ufficio a Toronto con i Raptors, e mi ricordo la bellezza di questo ufficio, tutto bellissimo, segretari a disposizione, e poi sul tavolo c'era un libro grosso, questo libro grosso, che era un libro grosso da studiare, da imparare, erano tutte le regole dell'NBA, migliaia e migliaia di regole. E la forza dell'NBA è che c'è la regola per tutto, cioè tutto è previsto nelle loro regole, tutto dalla più cosa più grande alla cosa più piccola. E non ci possono essere discussioni, non ci saranno mai discussioni, tutti stanno con le regole, non ci sono compromessi, non ci sono letture che sono né bianco né nero ma sono grigie, no, tutti stanno con le regole. E la forza dell'NBA è anche questa, cioè tutti partecipano allo stesso business, tutti si sentono protagonisti dello stesso business, ma tutti stanno con le regole che sono state create per questo business. E questa, secondo me, è la grande forza. E questa è la cosa che, arrivando lì, soprattutto da un'esperienza come quella europea, uno si rende conto come un modello commerciale di quel tipo lì può avere successo. Concetti che il basket e più in generale i quadri dirigenti dello sport europeo stanno solo ora assimilando, sottolinea Gherardini. Al centro del modello americano, conclude il manager, c'è l'idea che dare chance di vittoria e sviluppo a tutti sia la base dell'interesse e del successo del sistema intero. È questo che noi facciamo fatica a imparare in Europa, è questo che ogni tanto mi trovo anche a discutere adesso in maniera amichevole, no? Quando nelle riunioni che facciamo, no, con tutte le altre squadre di Eurolega, cerco di spiegare come Proprio l'essere compartecipi di un prodotto, l'essere compartecipi di un qualcosa di questo tipo smussa gli angoli, perché tutti ci rendiamo conto che dobbiamo proteggere il nostro prodotto, farlo diventare maggiormente di successo per poterne poi beneficiarne, ma tutti siamo parte dello stesso processo, tutti dobbiamo vederci compartecipi. Non è più una questione il mio orto è più verde del tuo orto, ma l'NBA il successo dell'NBA è che quando a giugno qualcuno nello spogliatoio viene coperto di spumante e si fuma il sigaro con il O'Brien Trophy in mano, gli altri 29 proprietari sono comunque contenti perché hanno avuto successo anche loro. La forza dell'NBA, che in un certo senso minimo lo comincia a sperimentare quest'anno l'Eurolega con il nuovo formato, è il fatto che è una Lega che comunque, grazie a un formato, a una stagione fatta in una certa maniera, ha un certo grado di imprevedibilità nei propri risultati. Tutti in fondo hanno una chance con il sistema che viene creato, che siano le limitazioni salariali da una parte o il draft dall'altra o quello che viene inventato di volta in volta, in fondo tutti possono avere una chance di arrivare a vincere qualcosa. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.